Siamo entrati nella dimenticanza. E di noi, chi vuoi che si ricorda? Giorni passati ad aspettare per ricevere un tuo segnale. Immersa coi piedi nella neve, con la testa avvolta dalle nuvole e le farfalle che vagano nella pancia. Benvenuti nella Non ci resta che aspettare per vederti comparire dopo mesi di agonia. Benvenuta, amica mia.